ne dite? Ah, figliola, son quasi fuori di me. Se l'encio a moglie, non mi potrà sposare. Lo manderemo a sposare la berlina, galeotto furfante. Guai a lui se mi capita davante. Eppur dite che è ricco. Oh, le ricchezze son forse, per chi ha trista inclinazione, un privilegio a diventar briccone. Dunque è meglio esser povero. Sicuro meglio meschin che tristo. Ah, sei diavolo, me lo porta d'intorno un'altra volta. Non so quel che farò con quell'indegno. Eccolo! È meglio che sfuggiam l'impegno.